Un'altra radio Roma. Si è svegliato! Buongiorno, signor Marchese. Buona giornata, eccellenza. Dormito bene, signor Marchese? Oh, ma che è qui? Andosso, oh! Signor Marchese, nel suo palazzo. Nel mio palazzo? Ma che cazzo sta di? È il palazzo, signor Marchese. Io sono Gasperino il Carbonaro. Ma signor Marchese! Ah, ma basta con sto Marchese! Mamma mia, ho rotto i coglioni! Io sono Gasperino il Carbonaro. L'altra radio. Io sono Gasperino il Carbonaro. Un'altra radio. È una radio che potrebbe avere effetti indesiderati e anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Io sono Gasperino il Carbonaro. Salve, salve a tutti. Quello che state ascoltando è DJ Gasperino, pronto a passare con voi circa un'ora, ascoltando della musica, a mio modo di vedere, molto buona, scaricata liberamente, perché non dimentichiamo che questa è tutta musica libera, dai siti come Jamendo. L'altro giorno, mentre camminavo per le strade della nostra città, riflettevo a quanto siamo fortunati a vivere in una città bella come la nostra, piena di monumenti, ricca di un clima veramente eccezionale. E questo spesso crea dei disagi, perché le persone che vengono a visitarla creano un traffico realmente assurdo. E allora, quale miglior motivo per non ascoltare un nostro podcast scaricato dal sito www.nartraradioroma.blogspot.com? E se non l'avete ancora fatto, ditelo ai vostri amici, che noi siamo qui. Ho deciso di passare degli artisti, a mio modo di vedere, veramente veramente forti, e come al solito cercherò di toccare più generi possibili in questo spazio. Pertanto incomincio subito con mettere alla prova il vostro impianto hi-fi, quindi alzate le casse, perché sto per passare i Sonorant con il loro Engulfed. Se di Roma sei amante alla massima essenza, un'altra radio dalla tua grande potenza. Bonorant, qui su un'altra Radio Roma. Ok, parliamo del rock progressi. Il rock progressive nasce alla fine degli anni 60 nel vecchio continente e viene considerata una musica per la crescita della mente, caratterizzata da elementi fondamentali come la suite, l'uso di tastiere che va a sostituire l'utilizzo di strumenti a fiati e i testi impegnati, meglio se letterari. I gruppi che hanno caratterizzato i rock progressive sono molti e molteplici, è inutile elencarli in questo spazio, ma un gruppo a cui sicuramente stiamo prestando attenzione in questo ultimo periodo, almeno qui su un'altra Radio Roma, sono i Mechanical Butterfly. A voi propongo l'acrobata del deserto e a tutti auguro una buona crescita di mente. Thank you. Mechanical Butterfly con l'acrobata del deserto. Il pezzo che sto per passare, che ho già pronto per tutti quanti noi, è un rock. Loro sono italiani, si chiamano Altera Radio, la traccia è Basterebbe dell'album Demo Tape. Si chiamano Steep, vengono dalla Germania e ci propongono un ottimo rock. Il brano che ci ascolteremo qui in esclusiva su un'altra Radio Roma è Fly With Me. Mine all

pezzo jazz che sto per proporre, dal titolo Silent, tratto dall'album Inside, è suonato da un quintetto jazz composto al pianoforte da Paolo Pavan, al sassofono tenore David Marinacci, alla tromba Angelo Olivieri, alla batteria Fabrizio Boccardelli e al contrabbasso Marco Roccuzzo. A voi buon ascolto. Silent. Thank you. Come avrete capito, io sono un fan del jazz. E così, dopo Paolo Pavan, ci andiamo a sentire un altro gruppo italiano. Loro sono gli Slam e ci presentano Caro Tino. Successivamente, dei Boom Boom Beckett, gruppo e formazione di Torino, ci sentiamo Hot Flakes. A fra poco. Thank you. fino laggiù. Ma poi risale ancora quando scivola e ritorna su. E poi sprofonda ancora, tu non puoi parlargli mai d'amore, che lui non ti sta a ascoltare. E poi ridi quando ride, piangi quando piange, tu ti senti vivo solo se quel cuore ricomincia a battere solo per una lenta melodia che danza in una strada. Senti quella vecchia poesia, non l'hai dimenticata. Quando sarai pronto ad ascoltare te, si accenderà il colore. E poi ridi quando ride, piangi quando piange, tu sei felice solo se quel cuore ricomincia a battere solo per di schiavi afroamericani nelle piantagioni di cotone nel sud degli Stati Uniti d'America, insieme all'utilizzo di melodie delle cosiddette blue note, dietero origine al blues, il quale è forma musicale dell'Africa occidentale. Questo genere musicale, ossia il blues, ha influenzato moltissimi altri generi come il jazz, il rhythm and blues, il rock and roll, l'hip hop e la musica pop in genere. Una piccola curiosità. La traccia più antica di una forma musicale simile al blues è il racconto che nel 1901 fece un archeologo del Mississippi descrivendo il canto di lavoratori neri che sembra aver affinità melodiche e lirica con il blues. Non è dunque possibile stabilire con certezza una data esatta dell'inizio di questo genere musicale. Tuttavia, un anno fondamentale fu il 1865, anno dell'abolizione della schiavitù negli Stati Uniti d'America. Ottenuta la libertà, numerosi ex schiavi musicisti iniziarono a portare la loro musica fuori dalle piantagioni. Lui è di Londra, si chiama Robin Gray, ci presenta Pelle più giovane, Younger Looking Skin. Joseph's in the forest, searching for the man that they call Peter. I am in the bathroom, looking for the marbles that I've lost. The piglet flew out of the window, landing deftly in the garden. Ellie is in Hampstead, desperately hunting for some moss. I don't like your fashion business, I don't like your fashion business, mister. And I don't like those drugs that keep you looking so thin. I don't like your fashion business, I don't like your fashion business, mister. And I don't need no cream, no cream to give me younger looking skin. Ruth is down in southern Spain, talking to my long lost twin brother. I just washed my eyelids and hung my blue coat high upon a cross. Fish and Spoon returned with plans for getting married in the autumn. Jacob's leaving puddles in the bathroom for the bugs to skate across. I don't like your fashion business, I don't like your fashion business, mister. And I don't like those drugs that keep you looking so thin. I don't like your fashion business, I don't like your fashion business, mister. And I don't need no cream, no cream to give me younger looking skin. Wednesdays only rivaled by making sense of Tuesday. Tuesday's only rivaled by Monday and perhaps Sunday too. A drink of fuck some luck and maybe we might keep the boat afloating. Patching up the scars with some cardboard and some karma just might do. And I don't like your fashion business, I don't like your fashion business, mister. And I don't like those drugs that keep you looking so thin. I don't like your fashion business, I don't like your fashion business, mister. And I don't need no cream, no cream to give me younger looking skin. I don't like your fashion business, I don't like your fashion business, mister. And I don't like those drugs that keep you looking so thin. And I don't like your fashion business, I don't like your fashion business, mister. And I don't need no cream, no cream to give me younger looking skin. Che ci andiamo ad ascoltare è The Liquid Frame, che ci presentano un blues musicale dal titolo Gaza Report. In some ways it's as if the night was just the beginning, just the easy part. Shireen Tedros, Al Jazeera, Gaza City.

dal blues sperimentali dei Liquid Frame siamo passati alla fusion degli It Alien con la loro ultima vera. Sì, sì, sì, sì, pure tu puoi costruire un tuo podcast e inviarlo qui a un'altra Radio Roma, che sicuramente lo ascolteremo e se ci piace lo mandiamo. Parola di Lupetto. Dunque, abbiamo toccato parecchi generi. Ringrazio tutti gli artisti che hanno permesso questa trasmissione, perché vi ricordo che noi trasmettiamo solo ed esclusivamente musica libera. Ringrazio tutti quelli che ancora una volta caparbiamente sono venuti a scaricare questo podcast. Spero di avervi fatto divertire, di avervi fatto ascoltare buona musica. Abbiamo il tempo per un'ultima canzone di Kendra Spinger dal titolo Angela. Vi saluto con un bacio e vi lascio una poesia del nostro amato Trilussa. Dal titolo Er sorcio de città, er sorcio de campagna. Un sorcio ricco della capitale invitò a pranzo un sorcio de campagna. Vedrai che bel locale, vedrai come se magna, gli disse il sorcio ricco. Sentirai, altro che le caciotte de montagna, pasticci, dolci, gnocchi, timballi fatti apposta, un pranzo con i fiocchi, una cuccagna. In testa sera, il sorcio de campagna, nel traversare le sale, intravide una trappola annascosta. Collega, disse, cominciamo male, non ci sarà pericolo che poi... Ma che non c'è paura, gli rispose l'amico, qui da noi ce l'hanno messe per coglionatura. In campagna, capisco, non se scappa, che se pigli un pochetto di farina c'hai la tagliola pronta che t'acchiappa. Ma qui se rubi non avrai rimproveri, le trappole sono fatte per gli michi che ce vanno drento gli sorcetti poveri, mica ce vanno gli sorcetti ricchi. Sipario! The music, the music, is the free, music, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free, free